Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. I primi manufatti in ceramica risalgono al Neolitico. Non so voi, ma io resto sempre sorpreso quando scopro che ci sono ancora margini di miglioramento nel processo per produrre un materiale così antico. Vi dico questo perché per la terza volta sono stato al Festival della Green Economy di Distretto. Il distretto è quello di Sassuolo e di Fiorano, in provincia di Modena, quindi il più grande distretto ceramico in Italia e anche uno dei principali al mondo. E come ogni volta mi sono sorpreso per alcune innovazioni che ci sono state nel frattempo. Allora, mi è sembrato interessante portare qui in trasmissione un paio delle imprese che hanno testimoniato e raccontato la propria attività nei giorni del festival. Diamo subito il benvenuto al primo ospite, quindi l'ingegnere Elisa Tonelli, responsabile qualità e ambiente della COEM di Fiorano. Buonasera Tonelli. Buonasera. Con lei Tonelli parliamo di un materiale ceramico che avete messo a punto e con cui attualmente producete una serie di piastrelle che si chiama Eco Più Più. Se ho capito bene come andare. La cosa interessante qui, Tonelli, è il fatto che voi stavate lavorando su una nuova miscela per produrre una ceramica, poi questa miscela deve essere cotta, che contenesse una quota più elevata possibile di materiali di scarto, che è un trend molto presente nell'industria ceramica oggi. Esatto, noi abbiamo lavorato per ottenere un impasto ceramico per poi produrre delle piastrelle che avesse un altro contenuto di scarto post-consumo, cioè in questo caso noi parliamo di vetro. L'esempio della lampadina di vetro che il consumatore finale ha già utilizzato, si è rotta la porta Perfetto. Di scarica e noi prendiamo appunto questo vetro e lo inglobate all'interno nell'impasto. D'accordo, e lavorando sul mix, naturalmente sarà un segreto industriale, esatto. Voi che cosa avete ottenuto? Noi siamo riusciti a ottenere non solo un impasto che utilizzasse altissime percentuali di questo scarto, oltre il 30%, ma in più siamo riusciti ad abbassare le temperature di cottura. Dei 100 gradi, questo ci ha permesso un vantaggio a livello di emissioni di CO2 di oltre il 40%. Ecco, questo è importante perché uno dice 100 gradi, allora a che temperatura si cuociono normalmente delle piastrelle? Il grass porcellanato tradizionalmente si cuoce a 1200 gradi. A 1200 gradi che nel vostro caso diventano 1100 e uno dice ma come, solo scendendo di 100 gradi si risparmia il 40% di emissioni, quindi di consumo energetico? Come mai? Come è possibile? Esatto, perché ovviamente quando ci si trova in temperature così alte, sì. Ovviamente bisogna consumare molto più. Moltissimo. È come un'automobile, come dire, che va a paletta, no? Quegli ultimi 5 chilometri all'ora in più di velocità ti costano moltissimo in termini di energia. Esatto, è proprio così. In sostanza, riuscendo a abbassare di 100 gradi le temperature, noi siamo riusciti, rispetto a un prodotto già ecologico, come può essere un prodotto ceramico certificato Ecolabel, un abbassamento di emissioni di CO2 di consumi energetici di oltre il 40%. Il 40%. Come è avvenuto? Questo è avvenuto ovviamente grazie all'utilizzo del vetro, che è un materiale particolarmente fondente e combinato e miscelato in modo accurato all'interno dell'impasto riesce a avere questa proprietà di abbassamento delle temperature. E con questo abbassamento delle temperature voi avete ottenuto, oltre al risparmio energetico, anche degli altri effetti, forse nemmeno ve li aspettavate. Non ce l'aspettavamo, esatto, perché non pensavamo. Invece questo materiale ha un ritiro bassissimo. Cioè, che cosa vuol dire? Allora, praticamente le piastrelle cosa succede? Vengono pressate, poi vengono cotte. Sì. Di solito dalla piastrella pressata alla piastrella cotta si perdono diversi millimetri, quindi c'è un ritiro. La piastrella si restringe, a differenza delle torte che lievitano, le piastrelle si restringono. Esatto. E quindi normalmente in un grass porcellanato questo restringimento è dell'ordine del 7%. Ed è tutta superficie in meno che non noi si vende. Al certo. Cliente e che il cliente può usufruire in meno, ovviamente. Invece in questo caso il materiale ritira solo sotto il 2%. Sotto il 2%, resta quindi quasi uguale a come era prima. È un 12%, che io risparmio questo 12% di più di materie sì. prime, ovviamente, che utilizzo. Va bene, ingegner Tonelli, grazie di essere stata con noi. Ecco, dovete sapere che il distretto di Sassuolo ha una tradizione molto forte se parliamo di recupero degli scarti, perché oggi il 99,5% degli scarti vengono recuperati e reimmessi nel ciclo di produzione. Tutta l'acqua viene recuperata. Anche per quanto riguarda l'energia, c'è stata una riduzione dagli anni 80 di quasi il 60% nel consumo di energia per metro quadro di piastrelle. Eppure oppure c'è ancora da fare. Ed ecco qui il nostro secondo ospite. Buonasera Gian Pietro Cuochi. Buonasera a lei, signor Melis. Dunque, lei è il titolare di un'impresa che produce impianti industriali, la TCK, che ha sede a Maranello, e voi avete messo a punto un bruciatore per i forni con cui si cuociono le piastrelle, che fa risparmiare dal 10% in su dei consumi energetici. È così, Cuochi? Corretto. Come avviene questo risparmio? Evitiamo di bruciare una parte del combustibile all'interno del forno di cottura, quindi eliminando tutti quei fiammoni gialli e lunghi che si vedono andare verso il cammino dei fumi, bruciando tutto il combustibile all'interno della camera di combustione. Ecco, perché la cosa che può sembrare sorprendente, la temperatura di quelle fiamme gialle e rosse che lei descrive nei forni è più bassa della temperatura del forno, in pratica. Del forno stesso, sì signore, perché il natural gas brucia a una temperatura che è vicino agli 800 gradi, mentre quasi sempre nel forno ci sono temperature molto più alte, fra i 1100 e i 1220 gradi. Dunque, la cosa che mi ha colpito quando ci siamo incontrati, che lei mi spiegava che una gran parte della vostra attività è all'estero, nonostante voi vi troviate al centro del più grosso distretto ceramico italiano. Correttissimo, nel senso che l'80% di tutta la produzione ceramica italiana viene prodotta tra le province di Modena e di Reggio. Nonostante questo, il 90% della nostra produzione viene esportata all'estero. All'estero dove? Ma soprattutto, come sempre, nei paesi del BRICS, ad esclusione della Russia, che per ovvi motivi di costo del combustibile è meno interessata. A questo proposito, una cosa che noi abbiamo riscontrato andando ad operare in questi paesi è che il management tecnico di queste imprese è particolarmente pionieristico, non è conservativo, scommettono sull'innovazione. Grazie, grazie Cuochi. La ringrazio. E con questo è tutto, appuntamento a domani.